Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata, prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, sanità, i conti della Regione Emilia-Romagna e tanto altro. Più isolate ed esposte alla violenza, specialmente in famiglia. Più fragili e in difficoltà nell'accedere ai centri antiviolenza a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. È quanto emerge dal rapporto 2021 dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, presentato in occasione della recente giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sentiamo la Presidente dell'Assemblea Legislativa, Emma Petitti. Come Assemblea Legislativa vogliamo ricordare le recenti vittime di femminicidi nella nostra regione, tutte le donne che ogni anno purtroppo sono vittime di violenza e di femminicidi. E vogliamo affermare il nostro impegno attraverso atti legislativi, azioni, la rete regionale che tiene insieme la prevenzione e la protezione per le donne e ricordare a tutte quelle famiglie e a quelle donne che non siete soli. Secondo i dati contenuti nel rapporto, nel 2020 sono aumentate del 43% le richieste d'aiuto al numero verde antiviolenza 1522, ma sono diminuite del 18,5% le donne che hanno preso contatto con uno dei 22 centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna. L'impegno delle amministrazioni pubbliche per contrastare e prevenire la violenza contro le donne è stato al centro della conferenza delle elette che si è riunita in Assemblea Legislativa. Non è destino, è il titolo scelto per questo appuntamento. Sentiamo il presidente della Commissione Parità, Federico Amico. Non è un destino, diciamo così, essere vittima di violenza, soprattutto se donna. Le testimonianze che oggi abbiamo ascoltato sia dagli enti locali ma anche, io penso, i centri antiviolenza, così come il mondo dello sport e soprattutto sul finire il mondo della cultura, ci dicono che c'è tanto lavoro da fare. L'incontro con le rappresentanti degli enti locali è stata l'occasione per un confronto sulle misure da attuare a partire dal piano regionale di contrasto alla violenza di genere. Per la Presidente del Coordinamento dei Centri Antiviolenza, Cristina Magnani, si tratta di un problema culturale che richiede riconoscimento anche ai livelli più alti. Sentiamo le sue parole. La violenza non viene riconosciuta neanche nei tribunali e questo è particolarmente grave perché è nei tribunali che le donne chiedono giustizia, chiedono una soluzione per la loro vita. E per continuare il confronto su un tema che coinvolge tutte le istituzioni, la Presidente Emma Petitti ha annunciato per il prossimo 13 dicembre una seduta straordinaria dell'Assemblea Legislativa con tutti i consigli comunali dell'Emilia Romagna. E ora un approfondimento sui principali argomenti trattati in aula. L'Assemblea ha approvato una nuova norma che riguarda l'organizzazione delle aziende sanitarie. Di fatto istituisce la figura del direttore assistenziale territoriale. Sentiamo il commento di Giuseppe Paruolo del Partito Democratico e di Marco Lisei di Fratelli d'Italia. Una figura che esisteva già all'interno delle aziende sanitarie, quella del responsabile assistenziale, diventa una figura che fa parte della direzione strategica aziendale. Abbiamo previsto di fare delle verifiche per vedere che questo inserimento porti effettivamente dei benefici e risponda ad alcune delle critiche che erano state avanzate, proprio cercando di dimostrare che sia un passo avanti dal punto di vista della concretezza del miglioramento delle prestazioni per i cittadini. Crediamo che sia la creazione di ulteriori poltrone, di ulteriori spese per mantenere queste poltrone, non certo utile a risolvere i problemi. Tanti hanno infermieri che sono sottopagati rispetto ai sacrifici che stanno facendo, che hanno fatto durante la pandemia. Una scelta insensata, una scelta di poltrone che noi non condividiamo e che non risolverà purtroppo i problemi. Sempre in tema di sanità, la Lega, con un question time, è tornata a chiedere chiarezza sull'organizzazione per la somministrazione della terza dose e su come verranno affrontati i maggiori costi dell'emergenza. Ascoltiamo le parole di Michele Facci. Prima di tutto l'organizzazione, la Regione è giunta impreparata a questo appuntamento, nonostante fosse annunciato da oramai mesi, E l'altra questione tuttora irrisolta è la questione dei costi. Non è chiaro ancora se l'amministrazione regionale ricorrerà a un aumento dell'imposizione fiscale regionale, ovvero sarà costretta a sospendere determinate prestazioni sanitarie qualora non arrivasse da parte del governo la copertura dei costi che verranno sostenuti. E sempre con un question time, Nadia Rossi del Partito Democratico ha portato in aula il tema delle concessioni demaniali. Il Consiglio di Stato ha indicato il 31 dicembre 2023 come termine ultimo per le proroghe di tali concessioni e le regioni sono al lavoro. Sentiamo Nadia Rossi. C'è stato un po' di subbuglio rispetto al tema delle concessioni balneari, un tema importante per quanto riguarda l'economia del nostro territorio, un tema che vogliamo tutelare e vogliamo anche proiettare nel futuro, e per farlo serve per forza una regia condivisa tra regioni e governo. La nostra regione deve diventare protagonista di questo percorso nella definizione dei tempi, dei modi e dei criteri della legge, della normativa nazionale. Sulle attuali disposizioni anti-Covid per lo svolgimento dell'attività di canto nelle scuole primarie ha chiesto invece delucidazioni Giulia Pigoni della lista Bonaccini. Ho interrogato la giunta regionale per capire come effettivamente queste scuole di musica e di canto possono attivarsi presso le scuole primarie, con quali normative legate ovviamente alla pandemia, e quindi come è possibile raggiungere questi finanziamenti e poter mettere in atto dei progetti veri e propri all'interno delle scuole, quindi poter comunque cantare e fare queste attività all'interno delle scuole. Un question time di Marco Mastacchi di Rete Civica ha chiesto un aggiornamento sulla riqualificazione dell'area dell'ex cartiera Burgo di Lama di Reno nel comune bolognese di Marzabotto. Ecco le sue parole. Sono stato rassicurato dall'assessore che non potranno essere effettuati in quell'area interventi impattanti come l'ipotesi del turbogas o del trattamento dei fanghi. Io ho sollecitato la regione, quindi l'assessore, per far sì che siano inseriti in quell'area appunto interventi coerenti con le due eccellenze già che sono già insediate in quell'area. Via libera dall'Assemblea legislativa al bilancio consolidato della Regione Emilia-Romagna per il 2020. I gruppi di maggioranza hanno dato parere favorevole al documento economico finanziario che aggrega il rendiconto della Regione Emilia-Romagna e i singoli bilanci delle società controllate e partecipate dalla Regione e dagli enti strumentali. Sentiamo Gianni Bessi del Partito Democratico, relatore di maggioranza del provvedimento. Solo due dati significativi che fanno capire l'importanza di questo documento: il conto economico, che è positivo per 299 milioni, e il patrimonio netto, che è positivo per 244 milioni. Voto decisamente contrario dalle opposizioni, che hanno criticato il provvedimento. Ecco il commento di Maura Catellani della Lega. Purtroppo le risposte non sono state soddisfacenti, soprattutto su partite economiche di rilevante importanza, soprattutto perché riguardano le società partecipate e controllate anche dalla Regione. Il nostro voto è stato fortemente contrario. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea Legislativa, seguiteci sui profili social e sul sito assemblea.emr.it. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini, Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire. Direttore Mauro Sardi.